per il profilo di Twitter, lo stupido, cattivo, antipatico Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze e la casella di posta, postawombat@insiberia.net, a cui scriverci e a cui potete ad esempio rivolgervi per chiederci delucidazioni colte che noi certamente elargiremo dalle nostre altezze. Senza neanche guardare Wikipedia. No, assolutamente, no. Senza leggere, ci abbiamo tutto infuso. Vorrei ringraziare la nostra ospite in studio di oggi. Sì, che non l'abbiamo fatta neanche intervenire. Che, tra l'altro, credo già che, insomma, secondo me è sopravvivere, ecco, all'asseramento è già un suo, comunque, un suo vantaggio. Nota di merito, perché chi viene alla fuga del gatto deve soffrire. Sì, è così. Sì. Cioè, l'arte è così. Sì, d'altronde. Comunque, è così. E va bene, e con questo... Oltre a sentire noi, pure... E certo, quindi salutiamo la Marghe, salutiamo voi che ci state ascoltando e ci risentiamo tra una settimana, domenica prossima, sempre intorno alle 4:30 con la fuga del gatto. Ciao ciao! Ciao ciao!